chi cercate? Le domande di Gesù sono sempre particolari, sia perché non sono espresse per curiosità, sia perché hanno il potere di mettere sempre in crisi le persone. Una di queste domande fu espressa da Gesù neanche 24 ore prima di morire sulla croce, cioè la notte quando il suo discepolo Giuda andò con soldati e guardie nell'orto dei Getsemani per arrestare Gesù. Così infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Chedron, dove c'era un orto nel quale entrò lui con i suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anche lui quel luogo, perché molte volte Gesù vi si era ritirato con i suoi discepoli. Giuda dunque prese un gruppo di soldati e le guardie mandate dai capi dei sacerdoti e dai farisei. Venne là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Io sono». Or Giuda, che lo tradiva, era anch'egli con loro. Appena egli disse loro: «Io sono», essi indietreggiarono e caddero a terra. Gesù dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Essi dissero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «Vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, lasciate andare via costoro». E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Giovanni 18:1. Molte volte Gesù è stato oggetto di odio da parte dei sacerdoti, degli scribi e della folla, ma nessuno aveva mai messo le mani sulla sua persona. Ora era giunto il momento che si avverassero le profezie a suo riguardo, e una grande folla munita di bastoni, torce e armi era pronta ad arrestarlo. Gesù sapeva benissimo cosa stava per succedere, per questo andò loro incontro, rivolgendo una domanda come se fosse stato la persona più sprovveduta e inconsapevole, ma in realtà intesa unicamente a far riflettere le persone presenti. Chi cercate? Una simile richiesta può essere estesa a tutti noi, perché fin dalla nascita cerchiamo ogni cosa: cibo, salute, benessere, l'anima gemella, cose preziose, amicizia, realizzazione di se stessi, un futuro sicuro, una morte serena e dignitosa. Noi cerchiamo. Anche le persone di fronte a Gesù cercavano qualcosa, o meglio, qualcuno, ma non sapevano neppure chi stavano cercando. Erano lì perché istigati da un odio immotivato, e per loro uno valeva l'altro. Per questo Gesù chiese: «Chi cercate?» La risposta degli aguzzini fu precisa: «Gesù il Nazareno». Sembrava che avessero le idee chiare, sapendo chi cercavano. Eppure, alla risposta di Gesù, indietreggiarono e caddero a terra. Lo spettacolo aveva certamente del comico da un certo punto di vista, ma c'era un'atmosfera di sacralità rara e pregnante. Gesù rispose di essere «Io sono», cioè la divinità che si era rivelata ai padri del popolo di Israele. Ecco perché essi caddero tutti a terra, indietreggiando dalla paura. Certo, gli aguzzini non si aspettavano un simile impatto. Non erano pronti di incontrare il Dio da loro stessi, invocato quotidianamente nelle preghiere e nel tempio. Erano preparati ad arrestare un malvivente, a trovarsi anche di fronte ad un uomo ricercato, ma mai, e poi mai, a trovarsi davanti al loro creatore sovrano. Se vogliamo, in qualche modo succede ad ogni essere umano alla ricerca della verità. Se si fa un'indagine sull'uomo più famoso della storia, su colui la cui impronta nella storia sia la più marcata e il cui numero di seguaci corrisponda al più consistente, tutti condividono senza ombra di dubbio che si tratti di Gesù Cristo, l'uomo che ha diviso la storia in due, prima e dopo Cristo. Forse per questo milioni e milioni di persone di ogni epoca desiderano conoscerlo, anche perché nessuno ha mai parlato come lui. Ed ecco che le chiese sono gremite di persone per ascoltare l'Evangelo, cioè il messaggio relativo alla vita di Gesù, persone che sono attratte dal messaggio di amore della parola di Dio, persone che cercano di risolvere i loro problemi. Sono pronte a tutto. Sono disposte a compiere grandi sacrifici pur di ottenere ciò che cercano, ma quando si trovano di fronte ad un Gesù che è il loro personale salvatore, un padrone che chiede la totale resa della loro volontà corrotta, improvvisamente si tirano indietro spaventate e inorridite, non preparate ad un simile incontro. Quante persone ho visto attratte sì dal messaggio evangelico, le quali tuttavia ho notato scappare con terrore quando comprendevano il prezzo richiesto loro dalla fede. Cosa cercavano allora? Chi cercate? Chiederebbe Gesù. La maggioranza di persone non cerca la risposta al tormento della perdizione eterna, non cerca Gesù Cristo al di sopra di ogni cosa terrena, non cerca la pace e la gioia di Dio a qualsiasi prezzo, ma cerca il benessere terreno, cerca l'indipendenza da Dio. Un giorno qualcuno chiese a mia madre, una donna a suo modo religiosa, come tanti altri, se era pronta ad incontrare Dio, e lei rispose prontamente e seccata: quando morirò, l'importante è che Dio mi stia lontano. Dio starà lontano da mia madre, ma quello che lei non sa è che il luogo dove andrà si chiama inferno, cioè un luogo di dolore e tormenti. La reazione di mia madre sembra unica, ma se leggiamo attentamente la parola di Dio, tutti quelli che hanno avuto un incontro diretto col divino hanno ricevuto uno scossone sentimentale, non sono rimasti gli stessi, e per conseguenza o si sono arresi o lo hanno rifiutato. Pensiamo a Mosè o al profeta Isaia, ma anche all'episodio dell'indemoniato guarito da Gesù, i compaesani del quale, spaventati, chiesero a Gesù di allontanarsi dai paraggi. Stessa reazione si ritrova quando Gesù disse di essere il pane e l'acqua della vita. Da quel momento, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Giovanni 6.60. No, non è facile incontrare Gesù accettando quello che concretamente egli è. Ecco perché Gesù chiede ancora oggi: chi cercate? Noi cerchiamo Gesù con dei concetti predefiniti, ci siamo formati una certa idea di lui e vogliamo farlo rientrare nei nostri schemi, e tutto quello che esige troppo di noi stessi lo rifiutiamo. Desideriamo un Gesù con uno sconto, vogliamo un Gesù non estremista, che ci lasci anche degli spazi liberi dove possiamo soddisfare le nostre inclinazioni, da lui definite sbagliate. E, per questo, quando abbiamo la rivelazione che lui è l'unico Dio al quale rivolgere le nostre preghiere e i nostri desideri, allora indietreggiamo, cadendo nei nostri errori. Non a caso Gesù chiede una seconda volta a coloro accorsi per arrestarlo: chi cercate? Il fatto è che gli aguzzini rispondono di nuovo che stanno cercando Gesù il Nazareno e, con grande pazienza e amore, Gesù a sua volta replica di nuovo di essere l'Io Sono e per questo chiede di lasciare andare i suoi discepoli. Ciò che sta succedendo non deve essere sminuito. Il fatto che nessuno dei presenti accorsi per arrestare Gesù il Nazareno non fosse in grado di identificarlo significa che Gesù non aveva nulla di particolare degno di nota, almeno apparentemente. Non aveva una lunga veste che lo distinguesse dagli altri, come il Papa, i cardinali o i preti cattolici. Non aveva nessuna forma fisica da attirare le persone, al contrario di come viene rappresentato in statue, pitture o film. Non aveva neppure vestiti lussuosi da identificarlo come un re. Gesù è sempre stato un uomo simile agli altri uomini, a tal punto da potersi mescolare agli altri senza essere notato. Quanto è triste per coloro che si dichiarano seguaci di Cristo, ma si conducono nella vita in modo completamente diverso. Il cristianesimo è disonorato non dagli atei, ma da coloro che si professano cristiani e lo rinnegano con la loro esistenza. Fosse solo così, il fatto è che causa loro il nome di Dio viene bestemmiato. Romani 2.24. Chi cercate? Questa domanda posta da Gesù non può lasciarci indifferenti, perché è tesa a farci riflettere ed indagare sulle nostre motivazioni più intime. E poiché un giorno Dio rivelerà i nostri pensieri più segreti, è saggio esaminarli ora per non essere svergognati a suo tempo. Quando la folla che cercava Gesù lo trovò sulla riva del mare di Galilea, gli chiese: «Maestro, quando sei giunto qui?» E Gesù, che conosceva i loro cuori, rispose: in verità, cioè vi giuro che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Giovanni 6.26. Le parole di Gesù centrano il nostro egoismo. Quante volte si dice di seguire Gesù e poi alla prima difficoltà si torna indietro? Non è forse così anche nella parabola del seminatore? Infatti, in quella parabola dove Gesù mette in evidenza ciò che abbiamo veramente a cuore, riferendosi al seme che è caduto in luoghi rocciosi, dice: «E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato». Matteo 13.2021. Essere scandalizzati significa reputare qualcosa un intoppo in corso sulla strada intrapresa. Quale buona motivazione per fare retromarcia, per cui spesso si determinano delle giuste decisioni, si prendono delle buone posizioni, si fanno delle promesse ardite. Ma al primo ostacolo meno, anche al secondo meno, con molta serenità si ritorna alla vita di prima. Questo dimostra ancora una volta che quella del cristiano è una vita possibile solo a chi non teme di rischiare il tutto per tutto, e per chi ha una buona dose di tempo e di volontà. Proprio per questo, Gesù non ha mai addolcito il prezzo richiesto per seguirlo, ma è sempre stato schietto riguardo alla dispendiosa chiamata da lui rivolta all'umanità intera, come quando disse: «Chi mi vuole seguire? Rinuncia a tutto, perfino alla propria vita». Gesù ci chiede ancora oggi: «Chi cercate?». Lo chiede non solo una volta, ma anche due, perché non ha bisogno di grandi folle, ma di poche persone che siano disposte a tutto pur di seguirlo. Se con 12 apostoli ha rivoluzionato il mondo intero, anche un solo cristiano disposto a tutto può rivoluzionare la patria nel quale vive. Si cita spesso Martin Lutero, che con la sua fermezza nella parola di Dio ha scosso le fondamenta della religione cattolica romana, ma vi sono stati anche tanti altri uomini e donne a noi sconosciuti, e tuttavia strumenti per l'avanzamento del regno di Dio. Chi cerchiamo? Se cerchiamo Gesù, solo Gesù e il suo regno, non solo la nostra ricerca avrà un esito positivo, ma realizzeremo che ogni altra cosa ci sarà sopraggiunta, sarà in più. Questo è il giusto metodo per cercare Gesù. Dicembre 2008, Ellero.